stata la bambina del cortile con cui giocavo a dire parole nuove e l'innocenza disegnata sul pallore della tua faccia quando all'alba spunta il sole, il tuo sorriso che infelice rincorrevo e l'ho afferrato col mio sguardo disperato e tu hai trovato quella pace che cercavo. Dov'è finita la bambina che io amavo? Dov'è nascosta quella piccola conchiglia della tua bocca di salata meraviglia? E tu eri l'onda che temevo e che speravo, perché era sabbia il castello che mostravo. Del duro orgoglio non rimane che la schiuma, quella speranza che ora infranta ci consuma. Dammi l'ultimo bacio, faccio l'ultimo giro sulla giostra del vento, spettinato dal pianto. Dammi l'ultimo grido di dolore e spavento, amor mio. E vai. E dove adesso la ragazza che chiamavo con quel bel nome che dicendo accarezzavo? E quell'urgenza di salire per finire il nostro amore che era lì per cominciare. E tu sapevi di tornare mani vuote da questo viaggio dopo aver saccheggiato tutto il mio cuore, ma valeva anche il saluto, la dissolvenza rovinata di un film muto.